affezionati a questa pellicola straordinariamente incisiva sul piano della saturazione cromatica e dei dettagli, erano costretti a fare questi lunghi percorsi mentre appunto la digitalizzazione avanzava. Il rullino è uno degli elementi mitici appunto della fotografia del Novecento, con tutto quello che significava anche la difficoltà di dover spedire il proprio lavoro per poterlo sviluppare, mandare ai giornali. Resta mitico per esempio l'esperienza di Robert Capa, che nello sbarco in Normandia fece delle fotografie straordinarie, per affidare questi rullini poi che dovevano essere portati a Londra per essere sviluppati e poi impaginati per la rivista Life, provocò un tale entusiasmo e eccitazione che il tecnico di laboratorio che doveva svilupparli li bruciò. Si salvarono soltanto 11 fotogrammi, quindi c'è tutta una storia legata al rullino che in qualche modo rende ancora più mitica appunto la storia di alcune immagini. La digitalizzazione della fotografia ha posto i colossi della pellicola davanti alla necessità di trasformare il proprio modello di business. La giapponese Fujifilm però ci è riuscita, Kodak no. Perché secondo lei? Ma è difficile dirlo, anche perché non sappiamo ancora esattamente come finirà questa vicenda. Probabilmente le dimensioni della Fuji, in un periodo in cui la concorrenza a Kodak li aveva stimolati moltissimo, con un momento d'oro che poi è stato quello della pellicola negativa a colori, in cui la Fuji aveva raggiunto dei risultati straordinari, gli ha permesso anche con le diverse dimensioni di essere più flessibile. Ma è anche vero che da un certo punto di vista c'è pure un ritorno alla pellicola da parte di molti fotografi e fotoamatori, e dopo un periodo in cui era quasi introvabile ora si ricominciano a trovare le pellicole. Solitamente quando c'è una rivoluzione tecnologica si crea comunque una nicchia, o dopo un determinato periodo c'è un ritorno all'abitudine precedente, in questo caso allo strumento precedente. Ecco, sta succedendo appunto anche per la pellicola? Parzialmente sì, è chiaro che i fotografi, credo quelli che amano la fotografia tradizionale, non abbiano diciamo la nostalgia o il desiderio di essere come gli amanti degli LP in un periodo in cui addirittura anche i CD ormai sono superati, però certamente c'è un ritorno a un'utilizzazione dei sistemi tradizionali di sviluppo e stampa. Certo è un episodio di nicchia, insomma la grande massa degli utilizzatori dell'immagine sono totalmente sul digitale ormai. Rullini, ma non solo, sono molti gli oggetti dimenticati e quelli che dimenticheremo presto, oggetti fuori moda che non hanno più mercato, usciti dal commercio perché non più usati. Il gettone, le carte telefoniche, le audiocassette, le enciclopedie, la segreteria telefonica, i francobolli e le lettere scritte a mano, le chiavi d'albergo, gli stereo portatili, i floppy disk, i rullini delle macchine fotografiche. È un lungo viaggio quello che passa attraverso gli oggetti dimenticati, le mode tramontate, le tecnologie sorpassate, i comportamenti fuori moda. Racconta molto della trasformazione di questi ultimi anni. Tutte cose che abbiamo date per scontate per lungo tempo, sono state fedeli compagne della nostra quotidianità e poi, improvvisamente, sono scomparse. Dell'elenco fanno parte anche modi di dire, come il mai dimenticato attimino, ma anche comportamenti e abitudini come l'autostop. Chi li vede più ai bordi delle strade quelli con il dito alzato? Oppure il rammendo. Nell'epoca della fast fashion, calze e magliette bucate si buttano, non si aggiustano. Resiste la sarta di quartiere per gli orli dei pantaloni, non così il salumiere, sempre più raro, o il riparatore di telefoni, televisori, computer. La tecnologia divora i suoi figli, si sa. Così i prossimi nominati all'eliminazione dalle nostre vite sono mouse e tastiere che, dicono gli esperti, verranno travolti dai touchscreen. E poi i lettori MP3, quando saremo sempre connessi la musica si ascolterà in streaming, oppure i navigatori, che saranno sempre più integrati nei telefonini. Dalle passerelle sospese nel vuoto ai finti rapimenti, dalla pubblicità che spaventa alle fobie da esorcizzare. Ma come fai quando tu sei bambino a prendere il coraggio e fede nel destino? Se papà ti mette per castigo al buio, poi ti mette a letto. Zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo. Di nuovo in studio con Essere Avere, seconda parte dedicata al focus sui trend. Oggi parliamo di paura e consumi. Ma passa per il buio senza paura. Ma passa per il buio facciamo come sempre con la nostra esperta Patrizia Martello di Memetic Club, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, bentrovati. Paura e consumi. Parliamo cioè di tutti quei prodotti, servizi e campagne pubblicitarie che fanno leva sull'incertezza, l'angoscia, le ansie individuali o collettive per indurre all'acquisto. Ma parliamo anche di consumi che interpretano la paura sotto vari aspetti, magari esorcizzandola. Patrizia. Economisti, sociologi, filosofi da Jacques Attali a Beck, a Anthony Giddens, a Maurizio Ferraris hanno assegnato alla paura, al rischio, un valore paradigmatico del vivere contemporaneo e una disamina delle angosce che affliggono appunto l'uomo nel presente la fa Bauman in Paura liquida, un testo noto del 2006 in cui la tesi di fondo è proprio che la paura oggi sia una dimensione costitutiva della nostra esistenza, sia incrementale e non affrontabile dai singoli. Le paure che sono del futuro, della crisi, dei disastri ambientali, eccetera, ma anche esistenziali e relazionali, saturano il nostro immaginario e sono anche un fattore influente sulle scelte di vita e di consumo. Dunque il mondo delle merci e dei consumi, soprattutto quelli culturali, reinterpretano le paure circolanti, in certi casi appunto enfatizzandole, in altri edulcorandole. C'è un caso molto interessante recente di Retailtainment che usa gli zombie, ormai protagonisti di molta produzione culturale e non a caso simboli catalizzatori anche esorcistici della paura di imminenti apocalissi, è la catena statunitense Westlake ACE Hardware che ha allestito un corner di assistenza per i clienti contro eventuali attacchi di zombie durante lo shopping in questi suoi frequentatissimi negozi di bricolage. Sulle paure individuali invece il mondo del fumetto ci offre un bellissimo distillato delle fobie contemporanee. Il progetto si chiama Phobos, col PH, realizzato dal collettivo di disegnatori italiani Dammi, è un progetto in realtà a cavallo tra arte, fumetto e illustrazione, un portfolio di 36 stampe in tiratura limitata, presentato tra l'altro all'ultima edizione di Luca Comics, in cui questi sei artisti hanno, ognuno evidentemente col proprio stile, interpretato e dato forma alle fobie contemporanee, trasferendo attraverso il loro tratto l'angoscia di queste paure che ci attanagliano, di cui siamo tra l'altro più o meno consapevoli. Dalla gerascofobia, la paura di invecchiare, all'ipnofobia, quella di dormire, all'elettrofobia, quella per i polli, alla leucofobia, paura del colore bianco, eccetera. Tutte le opere sono visibili nella pagina Facebook di Phobos, dove si trovano le 36 fobie, alcune di queste, ancorché sconosciute, ci sembrerà di averle subito, e alcuni fan postano la loro segnalandone l'assenza tra quelle menzionate. Non sempre si vuole non avere paura, a volte la si cerca ed esiste e hanno successo servizi a pagamento, per esempio per farsi rapire e vivere il brivido e il terrore di un vero, per quanto simulato, rapimento. È un servizio offerto dall'agenzia francese Ultime Realité che promette testuale un'avventura nella quale si farà fatica a distinguere la realtà dalla finzione. Il finto rapimento avviene inaspettatamente, dunque in qualsiasi momento della giornata e in un luogo imprecisato, quindi mentre si esce dal supermercato, a casa in piena notte. Insomma, le vittime vengono incappucciate, legate e trattenute per un periodo di tempo che va da 4 a 10 ore. Vero panico adrenalinico, il servizio va per la maggiore tra i manager che lo usano come una sorta di autoformazione, 900 euro il costo, autoformazione estrema per imparare a fronteggiare le situazioni di stress. E sul blog frizzifrizzi.it i gioielli della designer tedesca Iris Bodemer, che secondo la blogger che li descrive e commenta evocano l'orrore della coppia, cioè la paura di farsi imprigionare dalle relazioni. Come sono questi gioielli? Beh, gli anelli sono di filo spinato, le pietre più che incastonate sono impigliate in un intrico di rovi, oggetti metafora quindi dei rapporti umani che sono diventati oggi una fonte prolifica di ansie. C'è anche una serie TV immancabile che fa leva su una delle angosce contemporanee, il terrorismo e la paura dell'altro. Si chiama Homeland, premiata come miglior serie drammatica ai Golden Globe, apprezzata dallo stesso presidente Obama, propone un'analisi inedita del conflitto in Iraq. Arriverà in Italia su Fox il 6 febbraio. solennemente di sostenere e difendere la Costituzione degli Stati Uniti contro tutti i nemici esterni e interni e di serbarle lealtà e profondo rispetto. Che Dio mi aiuti. Patrizia, esiste anche un vero e proprio marketing della paura, è così? Sì, certo. Facciamo subito qualche esempio. Il primo, leggerissimo, ironico. Si apre la posta e si trova una mail minatoria, il mittente è SpyUX e la mail dice: la tua Dreambox è in pericolo, attenzione. La tonalità, appunto, è ironica, il messaggio però dice: qualcuno può rubarti gli oggetti del desiderio che hai amorevolmente appoggiato nella tua scatola dei sogni, pensando che fossero lì al sicuro in attesa della tua decisione, e invece... Altri esempi, da sempre in certi settori le campagne di comunicazione hanno fatto leva sulla paura. Evidentemente tutto l'ambito della detergenza per la casa, per la persona, che appunto ha sfruttato le ossessioni per la pulizia e l'igiene, tipiche soprattutto del mondo femminile. Senza fare esempi specifici di marchi, basti pensare a tutte le pubblicità in cui si vedono dei water o dei lavandini o dei bagni sempre pieni di germi di ogni specie, rappresentati come mostri terribili pronti ad attaccarci, che però creano di fatto una paura che possiamo definire fittizia, un po' da cartoon, cioè sono sdrammatizzati per bilanciare appunto il ribrezzo e l'ansia con la rassicurazione di una rappresentazione finzionale, soprattutto della soluzione che arriva dal prodotto. Storico invece il caso delle vendite davvero terrorizzanti a domicilio dell'aspirapolvere Kirby. Entrano due venditori, un lui e una lei, dotati non a caso di mascherine su bocca e naso. Quando i due venditori se ne vanno, si guardano le altre metà non aspirate dei vari oggetti della casa con un senso di effettiva paura per questi nemici invisibili ma presenti. Una recente campagna stampa di Pure Essentiel, uno spray purificante dell'aria che pare funzioni contro virus, germi, batteri, funghi e una lunghissima lista di nemici, dice testualmente: limita le fonti di epidemie. Visto che l'uso è da interni, l'idea spaventosa che sale alla mente è che casa propria sia una tale fonte di calamità. La paura trova nuove espressioni anche linguistiche nel linguaggio pubblicitario e di questi giorni uno spot che denota il catarro per la prima volta come viscido. E a proposito di marketing della paura, per vendere servizi legati alla sicurezza, fin qui niente di nuovo, ce n'è una che ha alzato di molto l'asticella. L'agenzia è DDB, l'azienda è cilena, vende dispositivi antifurto, si chiama ADT. La campagna punta a spaventare a morte ogni singolo abitante di Santiago. Come funziona? L'espediente usato è estremamente intrusivo e ansiogeno. Una scatola di cartone leggero, ripiegata, viene fatta passare sotto portoni e porte di casa e, senza la pressione di chi la tiene in mano, una volta oltrepassata la soglia ed entrata in casa, la scatola si ricompone. Potete immaginare cosa si prova rientrando e trovandola ai propri piedi. Dal terrore puro alla leggera inquietudine, che certo stinge un po' quando si nota il logo ADT e la scritta, intrufolarsi nel tuo appartamento è più facile di quanto tu possa pensare. Certamente un pensiero a un antifurto lo si fa. A questo proposito cito Seth Godin, guru del marketing, che dice che certamente la paura può essere usata come una facile tattica del marketing, ma non può essere, come invece spesso accade, l'obiettivo legato al suo uso, che invece è convincere che non bisogna averne. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo in Cina su paura, consumi e dintorni? Ce lo racconta come sempre la nostra Urban Watcher, Alessia Zampano. Ciao Alessia. Ciao Maria Luisa e buon pomeriggio a tutti. Nella provincia di Hunan, il Parco Nazionale Forestale della Montagna Tianmen è una delle regioni a più alto tasso turistico del paese. È qui che qualche mese fa è stata inaugurata l'ultima della lunga serie di Skywalk, quelle passerelle sospese nel vuoto che negli ultimi anni sono state realizzate un po' ovunque in giro per il mondo. Non senza ironia, l'ultima nata è stata ribattezzata il Sentiero della Fiducia è lunga 60 metri, si snoda intorno alle scogliere frastagliate del monte e assicura una passeggiata da brivido. La struttura è infatti ancorata alla parete a strapiombo e la superficie calpestabile di vetro temprato, quindi completamente trasparente, è sospesa su un abisso di ben 1430 metri e all'ufficio del turismo assicurano che ci si può anche saltellare sopra. Unica condizione per chi ha l'ardire di sfidare la paura e le vertigini consiste nell'indossare un paio di copriscarpe per evitare di sporcare e graffiare il vetro e poi si è pronti a vivere la terrificante e adrenalinica esperienza che i più ardimentosi hanno raccontato nel forum del portale di informazione china.org.cn, dove un ragazzo, ad esempio, ha scritto di aver avuto talmente tanta paura da essersi beccato i rimproveri della sua fidanzata. Grazie Alessia, guardate sul sito le foto perché sono veramente impressionanti. Patrizia, questa tendenza gioca su un fianco scoperto, di questi tempi è facile fare leva su paura, angosce, fobie. Sì, perché dal terrorismo alla crisi economica, ai cambiamenti climatici aumenta il senso di vulnerabilità e di smarrimento che viviamo. E per esorcizzare questa paura diffusa che permane anche quando si metabolizzano gli eventi che l'hanno generata, pensiamo alle Torri Gemelle o a Fukushima o al default, ci soccorrono da un lato le difese psichiche e dall'altro i consumi. Per esempio, le 200.000 copie vendute in un mese del libro di Roberto Giacobbo intitolato 2012 La fine del mondo è in questo senso un clamoroso esempio di spostamento negativo di nuovo esorcistico delle effettive paure, quelle vere per questo ansiogene del nostro presente che bellamente neghiamo dedicandoci a paure infondate come la fine del mondo in stile Voyager. Essere avere @radio24.it, scriveteci, aspettiamo le vostre segnalazioni, i vostri suggerimenti in attesa di risentirci come sempre domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.